carissima Nicla, allora intanto buona festa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, la Pasqua dell'estate, come saprai, a te e a Liana. E perdonami se solo oggi arrivo con questa registrazione, che avrei voluto poter fare parecchio tempo fa, ormai quasi 2 mesi fa, ma è stata un'estate di lavoro la mia, lavoro di cui ringrazio Dio perché mi consente di arrivare sempre tramite il computer ad aiutare tanta gente. Allora, essere decano del piccolo monastero online. Così come mi viene dal cuore, siccome non è una realtà mia, non è una realtà nostra, possiamo dire, per ora abbiamo gli elementi che ci consentono in tutta umiltà di affermare che probabilmente nasconde in germe un progetto di Dio per persone che possono arrivare a condividere qualcosa di importante come alcuni momenti della giornata in preghiera comune, in comune con la Chiesa universale ovviamente, e tra di loro utilizzando Skype, utilizzando una connessione veloce. Ecco, diciamo che il decano, la persona che ha più anni di vita tra di noi, ecco, dovrebbe avere, come dire, secondo me, il ruolo di colui o di colei che sta di fronte a Dio come rappresentante dell'intenzione dei cuori di coloro che sono ingaggiati in questa piccola avventura, per rappresentare a lui, per le mani della Vergine Maria, Madre di Gesù, le intenzioni, dicevo, profonde dei cuori di costoro. A dire che cosa? La persona che noi chiamiamo decano, come si usa in tutte le istituzioni private e pubbliche, è il rappresentante autorevole di un'autorevolezza che è dovuta all'adesione, nel nostro caso, di fede, di preghiera, di volontà di comunione e di carità reciproca. Ecco, rappresentante dunque di una realtà che è piccola, ma che quando viene vissuta per amore e portata dalla preghiera davanti a colui che tutto crea, tutto fa crescere, diventa, come dire, una preghiera nella preghiera. La tua preghiera può avere, secondo il mio piccolo modo di vedere, anche questo significato. Io, Nicla, posso rappresentare davanti a Dio le intenzioni profonde che albergano nel cuore di coloro che fanno parte del piccolo monastero online. Tu dirai, come? Semplicemente con la preghiera, semplicemente con la tua adesione alla condizione di vita in cui attualmente ti trovi, di persona anziana, con una salute che non è più quella dei 20 anni, ma sicuramente con una capacità di cuore, cioè con una capacità di amare, secondo me, che può contenere tutte le nostre capacità di amare, perché le può degnamente rappresentare. Ecco, tu sai che sei arrivata con Liana per il dono che Dio ci ha fatto della presenza nel piccolo monastero della nostra Marta, che è più presente che mai. Beh, sicuramente tu sai che per svolgere questo compito puoi chiedere anche il suo aiuto. Sono sicuro che già te lo sta dando e ce lo sta dando. Con questo ti ringrazio anche a nome di tutti i membri del piccolo monastero e ti auguro di nuovo una bellissima festa della Madonna assunta in corpo e anima in cielo.